secondo anno, salve a tutti. È il secondo anno che partecipo a Fiera Immensa e niente, è un'esperienza sicuramente da provare che lascia sicuramente qualcosa. Mi spieghi una cosa, va. Allora, praticamente è un giornalino che viene scritto appunto da noi ci sono delle varie interviste che vengono fatte sia ai migranti sia a volontari. Allora, questa sera ci siamo divisi le interviste. Per esempio, io insieme a una mia amica abbiamo fatto una parte di intervista doppia. Ad un volontario che partecipa a Fiera Immensa da diversi anni, mentre invece l'altra persona che abbiamo intervistato era una persona più giovane che partecipava per la prima volta a Fiera Immensa. E niente, le interviste si svolgono in maniera normale. Ci sono appunto questi vari tipi di interviste. Noi abbiamo fatto l'intervista doppia, ma c'è anche diciamo l'intervista ad un sui pareri che può avere un immigrante nei confronti di questa città, dell'accoglienza che gli viene offerta. In realtà è questione del mixer, perché è un mixer che non funziona. E ora si sente bene, è inutile che contestate. Adesso bene, ok, ci siamo, scusa, il nostro caro amico qui della Volta in Mondo, il nostro collega, va, diciamolo, sempre facciamo informazione dal basso, noi ci proviamo, noi siamo una radio di movimento, come stavo dicendo, non toccare più niente, ok, salvo cibo e bevuto, non toccherò più niente, e quindi ritorniamo a noi. C'è questo giornalino, insomma, a cura delle parrocchie. Ecco, no, per esempio, non è a cura di una sola parrocchia, ma tutte le parrocchie ogni sera si dividono il compito di scriverlo, diciamo. Quindi ogni giorno praticamente c'è questo turno di ragazzi che... Esatto, come c'è il turno per servire in mensa, appunto, c'è il turno per scrivere il giornalino. E magari vi divertite anche di più voi, che dici? Sì, diciamo che il giornalino è una cosa abbastanza divertente. È più figa come cosa, insomma, anche noi siamo qui a fare la radio. Ci si sente un po' più giornalisti, ecco. Anche noi siamo qui, come ti dicevo, a fare la radio, chissà perché. Però una cosa, insomma, interessante, andate in giro a chiedere pareri alle persone, migranti e quant'altro, però molte volte vedo che anche scrivete alcune informazioni un po' più, diciamo, di natura tecnica. Per esempio il primo numero, se non sbaglio, leggevo che, però tu non c'eri, quindi non ci puoi dire. Non lo so, anche non l'ho letto, anche perché viene distribuito a quelli che sono, diciamo, a Fiera Immensa, non leggevo, per esempio, insomma, questa storia dei cattolici che hanno creato Fiera Immensa. In realtà è un errore, diciamo così, perché se è una radio che appoggia per esempio, perché trasmettiamo, per esempio, rimbalziamo il segnale di radio blackout o di onda rossa, facciamo tanti servizi e comunque siamo una confederazione di programmi fondamentalmente, e siamo tutti, lo diciamo senza timore di essere smentiti, siamo tutti, diciamo, di area molto molto diversa da quella che magari può essere quella alla quale i giovani del giornalino fanno riferimento. Tu come vedi possibile comunque convivere, per esempio, transizione di fase, che ieri aveva il loro notato, ieri non capire perché ce l'hanno detto senza timore di essere smentiti, o forse probabilmente era così bello che, insomma, hanno pensato giustamente di portarlo a casa, perché era bello, era fatto bene, no, era fatto bene, un disegno fatto a mano bellissimo, e viva Peppone, sempre che lo diciamo. Però niente, insomma, tu credi che sia possibile questo vivere insieme, perché per immenso è proprio nati insieme dalla volontà di alcune persone che stavano nella Casba, che è un'associazione, era un gruppo di persone, insomma, che era, cioè tu entri nella Casba pure muove, dice Guevara, per dirti, no, che è il minimo che possa esserci. Ed è nata proprio quando queste istanze, quella cattolica e quella laica compagnesca, si sono incontrate. Non è stata quindi questa cosa che siamo stati invitati noi dai cattolici. Comunque, beh, tu come vedi questa, questa possibilità di convivere insieme, di fare comunque qualcosa insieme, malgrado le vaste divergenze di natura, non dico ideologica, ma proprio in relazione proprio alla... Sì, cattolici o comunisti e anarchici, perché noi siamo questo? Tu come la vedi? Beh, io credo che ciascuno possa prendere qualcosa dall'altro, cioè riuscire, anche se da sponde diverse, riuscire a prendere e fare tesoro di qualcosa che l'altro può trasmettere. Perché poi fra di noi Transizione è anche nota perché è una radio di trans, quindi cioè, il nome, insomma, vabbè, no, scherziamo, ma noi siamo sicuramente, abbiamo, vabbè, i nostri principi che qua sono esposti, diciamo, nel nostro progetto. Magari possiamo fare un confronto fra il progetto di transizione di fase, se vi interessa noi siamo sempre a disposizione per qualche giovane programmista che magari vuole venire a farci visita. A ogni modo, magari facciamo un confronto fra il nostro progetto e il vostro, che dici? Il progetto del giornalismo, ma sì, credo si possa fare. Ok, si può fare, quindi possiamo convivere senza ammazzarci. Benissimo. No, sicuramente non c'è bisogno di divergenze così accese, anzi. Importante rispettarsi. Ok, bene, allora ragazzi, io so che siete molto impegnati perché fra poco dovete finire il vostro lavoro, sbaglio? Lo dobbiamo pubblicare entro stasera, quindi abbiamo molto da scrivere. E allora sentirete le nostre parole mentre noi parleremo qui dalla radio, voi scriverete il vostro giornalino. Sì. Allora, compagnia dall'altra parte. Esatto, e nel frattempo Verde Binario ci osserva dall'alto, ma non c'è nessuno in questo momento, ok? E va bene così. Allora io direi di rimandare un po' di musica e continuiamo con l'ascolto della nostra selezione musicale, grazie a Voce Immensa, quindi.